vi è offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. Preventivi gratuiti su axerta.it. Sono le 21. GR24, il sole 24 ore. Crisi, il governo spagnolo potrebbe chiedere all'Unione Europea aiuti per circa 40 miliardi di euro. Iran, Obama e Netanyahu sono totalmente d'accordo nell'impedire al paese di dotarsi della bomba atomica. Milano tenta il suicidio un giudice accusato di essere colluso con l'andrangheta, ora in ospedale. Calcio ufficiale, la partita di domenica tra Cagliari e Pescara sarà aperta al pubblico. E stiamo parlando di crisi. Il governo spagnolo potrebbe richiedere all'Unione Europea circa 40 miliardi di euro di aiuti al sistema bancario. Lo afferma il segretario di Stato spagnolo La Torre, secondo cui rispetto ai 59,3 miliardi di necessità di capitale del sistema, la cifra potrebbe ridursi di un terzo dopo le misure di risanamento. Restiamo all'estero per le tensioni intorno all'Iran. Il presidente americano Barack Obama e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sono totalmente d'accordo sulla necessità di impedire che l'Iran si doti di armi nucleari, ha reso noto oggi la Casa Bianca, riferendo di un colloquio telefonico tra due leader. E adesso la politica italiana, con una dichiarazione di poco fa del presidente della Camera Fini. Dice durante la trasmissione 8:30: il signor Berlusconi è un corruttore e ora se vuole mi quereli, io parlo agli elettori. A me dispiace che tanti amici non abbiano capito qual è la natura del PDL. La destra, dice Fini, doveva essere un'altra cosa, il mio errore capitale è stato confluire nel PDL. E adesso continuiamo con la politica. Nel giorno in cui il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abruzzese, ha firmato il decreto di scioglimento dell'Assemblea, si aprono altri due fronti. Sotto esame i conti delle spese dei consiglieri, anche di Emilia Romagna e Piemonte. La prima per ora è un'indagine conoscitiva, senza ipotesi di reati. La seconda ha visto questa mattina i militari della Guardia di Finanza in azione a Torino. Un'inchiesta conoscitiva avviata dalla Procura di Torino a seguito di notizie stampa. La Guardia di Finanza in Consiglio regionale per prelevare documenti relativi alla contabilità dei gruppi consiliari dal 2008 a oggi. È la cronaca di una giornata che ha visto al centro dell'attenzione il tema del costo della politica e le procedure per i rimborsi spese, dopo che un paio di giorni fa l'ex consigliere regionale Roberto Rosso aveva riferito del caso di un consigliere regionale in vacanza che aveva poi certificato trasferte al fine di ottenere rimborsi da 5.000 euro. Rosso aveva poi chiesto scusa al Consiglio, ma il caso ha scatenato una bufera. Stando alla tabella pubblicata sul sito della Regione Piemonte, complessivamente i rimborsi nel 2011 hanno superato il 500.000 di euro. Filomena Greco, Radio 24, il Sole 24 Ore. Un'indagine nata dalle parole in TV di Roberto Rosso, deputato del PDL. Allora risentiamole. Io racconto una vicenda che mi è capitata personalmente. Ospito a casa mia, a Sestriere, un mio amico consigliere regionale. Questo qui vedo che tutti i giorni va a farsi firmare una cosetta da un documento da un consigliere comunale di Sestriere. Non so cosa serve sta roba. Poi alla fine della settimana bianca questo qui mi fa capire che ha guadagnato 5.000 euro in più. E dico, ma come hai fatto a guadagnare 5.000 euro per aver fatto una settimana bianca a casa mia? E mi spiega l'arcano. Cioè, ogni giorno il consiglio regionale del Piemonte paga l'indennità come se fosse andato a fare tutti i giorni consiglio regionale. Per il fatto di essere andato a fare la settimana bianca a casa mia, ma essersi fatto firmare da un consigliere comunale il fatto di essersi spostato a Sestriere. Poi paga l'indennità di missione a costo chilometrico, cioè da San Germano a Sestriere e ritorno tutti i giorni. Quindi questo aveva guadagnato quasi 1.000 euro al giorno per essersi venuto a fare una settimana bianca a casa mia a Sestriere. E sul fronte Lazio, Franco Fiorito non è più l'unico indagato per la questione dei fondi PDL alla Regione Lazio. Sono sotto indagine anche i suoi due segretari. La Procura di Roma starebbe pensando di contestare il reato di associazione per delinquere. Siamo alla cronaca. Il giudice Giancarlo Giusti, condannato ieri a 4 anni per corruzione aggravata dalla finalità mafiosa, ha tentato il suicidio nel carcere di Opera. Giusti si trova ricoverato in ospedale in prognosi riservata. La notizia è confermata in ambienti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

privati. Alitalia ti offre pacchetti volo più hotel in Italia, in Europa e nel mondo. Ad esempio, in Italia, volo andata e ritorno più una notte in hotel da 149 euro tutto incluso. Scopri i dettagli delle offerte su alitalia.com. Con le volo vacanze Alitalia, ogni volo è una vacanza. 01 Distribution presenta. Buonasera signora, sono il commissario Calabresi. Posso parlare con suo marito? Dal regista de La Meglio Gioventù. Davvero commissario, lei pensa che uomini dello Stato possano aver voluto la morte di tante vittime innocenti? Dimenticati di aver visto questa roba. Dimenticati anche tutto il resto. Romanzo di una strage. Un film di Marco Tullio Giordana. In DVD e Blu-ray. Ehi, ma che bella Peugeot! È nuova? Shh, zitto! Se no mi scoprono! Che c'è? Non ho pagato l'IVA! Davvero? E come hai fatto? È semplice, con le immancabili offerte Peugeot. Arrivano le immancabili offerte Peugeot. Ti scontiamo l'IVA e non solo. Su tutte le auto della gamma in pronta consegna, IVA zero e tasso zero. TAEG 284%, ma solo fino al 30 settembre. Cogli le ultime opportunità. Domenica negli showroom Peugeot. Apertura straordinaria. Gli speciali di Radio 24. La notte dei ricercatori. Buonasera da Federico Taddia e benvenuti in diretta da Trieste Next, il Salone Europeo dell'Innovazione e della Ricerca Scientifica. Siamo nella nostra postazione qui in Piazza Unità d'Italia, due ore a tu per tu con la scienza in questa notte dei ricercatori, in queste università aperte per mostrare il sapere, ma soprattutto mostrare chi c'è dietro al sapere. E davanti a me un po' di ricercatori, un po' di universitari, un po' di studenti, un po' di protagonisti, di storie che andremo poi a scoprire, e collegamenti con tantissime università italiane e le vostre telefonate, se avete anche voi storie e esperienze da ricercatori che siete o da ricercatori che eravate, potete chiamarci in diretta 800 24 00 24. Un padrone di casa è Andrea Segre, agroeconomista, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari. Ciao Andrea. Ciao. Tu da Bologna da anni, ma sei triestino, vero? Nessuno è perfetto, okay. Io sono triestino. Sì. Quindi padrone di casa territoriale, poi anche un padrone di casa invece di Radio 24, perché è un po' la voce della scienza nella nostra radio. E do il benvenuto a Federico Pedrocchi. Ciao Federico. Ciao Federico, ciao Taddia. Grazie Pedrocchi. Il significato subito di questa serata, la notte dei ricercatori, fa molto notte al museo, c'è cioè qualcosa anche di epico, di avventuroso. E non andrebbe confuso con il fatto che di questi tempi di crisi e di mancanza di fondi nella ricerca università, la notte dei ricercatori sia il fatto che non vedono l'alba in migliaia. Non è questo, è una, come si potrebbe definire, una recente ma forte tradizione, perché in realtà c'è in tutta Europa, è incominciato un po' prima in Europa, adesso è arrivato in Italia, non so esattamente, credo ci sia almeno significativamente da una decina d'anni, è dispersa, è inutile fare l'elenco, insomma in tanti centri universitari, anche centri di ricerca, quindi non solo nelle tipiche città universitarie, si aprono i laboratori tutta la notte alla cittadinanza. Perché si fa questo? Bah, la cosa originariamente nasceva da un intento molto interessante, insomma la gente con le proprie tasse, con i propri contributi finanzia la ricerca, è giusto che almeno una volta all'anno possa andare a vedere dove questi soldi vanno a finire, però si è anche trasformato in un momento certamente di incontro con una delle cose che la gente non può proprio frequentare, perché al di là di un'apertura speciale che tu puoi fare una volta all'anno, beh insomma nei laboratori, soprattutto in alcuni laboratori, è veramente complesso e impossibile entrare, e quindi si vedono cose certamente strane. E poi l'idea anche di comunicarla questa scienza, il ricercatore giustamente è un tecnico, giustamente fa ricerca, poi c'è quel passaggio invece che è anche la divulgazione, questo è un piccolo anello, questa notte diventa una sorta di provocazione stimolante per far vedere che la scienza è qualcosa di masticabile. Esatto, sì, cioè se la gente riesce a entrare nei laboratori in cui viene prodotta, è altamente probabile che nascano nelle persone un sacco di interrogativi in più di quelli che possono avere leggendo articoli o ascoltando trasmissioni, quindi si incrementa questo bisogno di scienza. C'è anche un fattore empatico, insomma entrano nei luoghi di cui sentono parlare invece attraverso i media, e allora come dicevi tu c'è uno stimolo. divulgazione, insomma, a fare divulgazione migliore. In Italia poi soprattutto noi abbiamo assolutamente bisogno di una maggiore presenza di cultura scientifica fra la gente, fra le persone. Andrea, l'ultima volta che ti ho intervistato eri ancora preside di facoltà, poi ti hanno tolto la facoltà, credo. Nulla di personale, però c'è stata la... Per dire la verità sarei ancora preside fino al 16 di ottobre, perché chiuderemo la facoltà e passeremo ai dipartimenti per la riforma Gelmini. Questo passaggio è abbastanza importante per la ricerca, per l'appunto, perché in queste nuove strutture, che si chiamano poi come le vecchie in realtà, quindi ci si confonde un po', sarà un problema di comunicazione, il dipartimento nuovo avrà i compiti di mettere assieme didattica e ricerca, mentre prima erano affidati alla facoltà, che aveva compiti essenzialmente di governare la didattica, la formazione, e il dipartimento la ricerca. Metterle assieme non è male, perché una buona didattica non può esserci senza una buona ricerca. Slegata dalla ricerca, quindi, di frontiera soprattutto. Quindi adesso in questo momento non so bene chi sono, direttore, perché sono già stato eletto, preside, insomma sono un po' confuso, però i ricercatori sono poco confusi in realtà, so bene quello che dobbiamo fare. E che ricordo hai invece della tua esperienza da ricercatore? Beh, da ricercatore, io sono ancora un ricercatore perché... In questo momento del telefono che sta suonando, tra l'altro, che credo sia il tuo. Non è detto, perché io l'ho spento, l'ho eliminato, l'ho buttato via, non è il mio, non è infatti, perfetto, ecco, okay. Ecco, guardate, ecco, il ricercatore che si ricorda. Beh, io continuo a fare ricerca e noi infatti abbiamo fondato proprio uno spin-off dell'università che si chiama la Spin-Out Market, questo mercato dell'ultimo minuto, e che parte da una ricerca teorica, volevamo capire perché si spreca tanto e poi abbiamo trovato un modo per recuperare ciò che si getta via e abbiamo costituito una SRL dell'università. Tutti pensano che sia volontariato, che sia invece qualcosa che l'università può offrire come servizio alla comunità civile, alla società. In fondo anche noi ricercatori abbiamo una responsabilità sociale, si parla tanto della responsabilità sociale d'impresa, anche l'università io credo ce l'abbia. 824-0024 per intervenire in diretta, fra pochissimo inizieremo il nostro viaggio in giro per l'Italia, ma visto che abbiamo qui anche tanti giovani, le loro testimonianze, partiamo subito dalla prima fila, non mi ricordo il nome, scusami. Alessandro Baldan, ricercatore Transtucare, uno dei 14 ricercatori che lavorano per questo progetto transfrontaliero finanziato dalla Comunità Europea. Scusa, ti faccio subito una domanda anche per portare un po' terra a terra questa serata, sarà il mio ruolo. E quando, che ne so, ha una zia, tu dici, sai zia, io faccio il ricercatore, capisce subito qual è la tua professione? Sì, la zia probabilmente lo capisce, una zia o zie abbastanza giovani, quindi zie che sanno, che capiscono, che mi hanno laureato e quindi sanno benissimo. Cerchiamo, proprio per quella che è l'anima del Transtucare, la filosofia del from the bench to the bed, cioè dal bancone del laboratorio al letto del paziente. Infatti, come hanno accennato sia il signor Pedrocchi che il professore, è quello di cercare di rendere una ricerca che sia alla mano di tutti, delle persone. Infatti quello che noi proporremo anche domani mattina sarà proprio sano invecchiamento. Quale dieta? Le nostre ricerche fatte in laboratorio, se rimanessero solamente a livello di alte sfere scientifiche, sarebbero allora poco comprensibili anche da parte delle mie zie. Quello che vogliamo fare è dire, benissimo, noi la capiamo molto bene, anche la mia collega, la dottoressa Schulek della Perth Slovena, qui con me, che lavora in laboratorio, sa benissimo che noi possiamo benissimo capire i nostri ragionamenti, i nostri progetti, però devono essere dei risultati comprensibili anche alla popolazione. Quello che presenteremo domani saranno dati concreti. Cosa potete fare? Cioè, noi vi diamo la possibilità di capire cosa abbiamo ottenuto e mettere in atto dei consigli che possono essere applicabili tutti i giorni. Questa è la scienza, insomma, da toccare, che è quello che succede anche qui a Trieste Next, che è una delle altre filosofie legate a questo salone. Hai parlato di sano invecchiamento, oggi ho avuto la fortuna di fare una chiacchierata con Margherita Hacke, anche lei, giochiamo in casa, e quindi ho chiesto a Margherita il suo rapporto con la ricerca, questo è quello che ci ha detto. E con noi Margherita Hack. Ciao Margherita. Ciao, Zede. Ciao. la parola ricerca per te da sempre è una parola importante. Sì, è stata la mia vita tutta una ricerca. Che ricordo hai delle tue prime ricerche, dei tuoi primi mesi, dei tuoi primi anni da ricercatrice? Beh, sì, dopo la tesi di laurea ho continuato la ricerca, avevo iniziato per la tesi di laurea, sulle variabili cefeidi, su come variavano gli spettri, e poi ho cercato di trovare un lavoro tutto mio, non suggerito da altri, e ho cominciato a studiare le stelle calde che hanno una grande corona estesa che dà delle caratteristiche speciali al loro spettro. E qual è stato il tuo motore da sempre per la ricerca? L'amore per la scienza, la passione, la voglia magari di scoprire qualcosa di nuovo? La voglia di scoprire e divertimento da applicare la fisica per interpretare la luce inviata da corpi celesti. A 90 anni ti senti ancora un po' ricercatrice? Sì. Sì? In che cosa? No, mi tengo aggiornata perlomeno. Quindi, perché comunque il ricercatore rimane alla fine ricercatore per tutta la vita, al di là del contesto. Okay. Margherita, tu questa sera parteciperai a Le donne e la ricerca. E, sì. Che rapporto c'è tra donne e ricerca? A te ha facilitato essere donna nel fare la ricerca? No, è stato indifferente. È stato indifferente? Indifferente, sì. Quindi né un vantaggio né uno né svantaggio? Né un vantaggio né uno svantaggio. Ma credi che la tua sia stata un'eccezione o nella scienza... Credo che molto dipenda dalle donne che spesso per l'educazione che ricevono da bambine non hanno abbastanza fiducia in sé, nelle loro capacità, non sono abbastanza competitive. Io per fortuna ho avuto un'educazione completamente libera e non sono mai stata condizionata dal fatto di essere una bambina. Margherita, oggi a un giovane ricercatore tu cosa diresti? Ma purtroppo è un panorama poco allegro oggi, di fare ricerca, di fare il lavoro che gli piace, e speriamo che la situazione cambi, perché per ora i migliori ricercatori sono costretti ad andarsene all'estero e si impoverisce il paese in questo modo. Ma una situazione poco allegra solo perché mancano fondi o è proprio un approccio culturale sbagliato? Ma penso sia anche un approccio culturale, perché anche se i fondi sono scarsi si può tagliare in altri campi che non nella ricerca. Margherita, da ricercatrice novantenne cos'è che vorresti trovare oggi? Ma vorrei capire che cos'è l'energia oscura, che resta uno dei più grossi misteri del nostro universo. È bello però darsi degli obiettivi anche a 90 anni, vero? E poi anche i pianeti extrasolari, trovare un pianeta simile alla Terra, vedere se ci sono altre forme di vita, se si può comunicare con altre intelligenze. Forse un giorno ci riusciremo a comunicare per via elettromagnetica. Tante domande, ed è questo il vero motore di qualsiasi ricercatore. Come sempre, grazie davvero Margherita, soprattutto per l'entusiasmo. Prego, ciao. Buon lavoro. Anche a te, ciao. Ciao, ciao. Margherita, la lasciamo mentre cerca l'energia oscura. È importante, lo dice sempre, darsi degli obiettivi, anche raggiungibili. Andrea, domani una cosa nuova, strana, una provocazione, lo spreco che diventa opportunità. Tu da anni stai lavorando in questa direzione e in questi giorni, tra domani e domenica, ci sarà una tappa importante di questo tuo percorso. Beh, abbiamo lanciato, proprio perché la politica adesso in questo momento è così, insomma, il termine spreco ruota e entra anche lì dentro. È una provocazione vera e propria. Da questa campagna Un anno contro lo spreco abbiamo scritto una carta che i sindaci domani, 104, avevamo un obiettivo di 100, partire dal nord-est, ma in realtà si sta allargando, firmeranno, però dentro ci sono delle cose concrete molto semplici. Noi vogliamo ridurre lo spreco da qui ai prossimi anni del 50%, partendo dal cibo, perché è veramente uno scandalo che si getti via qualcosa che è ancora buono, ma non soltanto è un problema etico, forse anche morale, ma adesso in tempi di crisi non ce lo possiamo permettere, perché gettando via ciò che è ancora buono, questa poi è la definizione di spreco, in realtà stai gettando via delle risorse, il suolo, a proposito di consumo di suolo, l'acqua, l'energia, che non sono scarse, come diceva qualche economista una volta, sono limitate, ma lo sappiamo in realtà da sempre. Allora anche i consumi in qualche modo lo devono essere. Il fatto di gettare via qualcosa che tu produci, trasformi, distribuisci e poi consumi altre risorse per smaltire sembra assurdo. E allora abbiamo dato alla politica, vediamo come reagisce, questa carta molto semplice, in modo che ci facciano i sindaci da intermediari rispetto alle istituzioni più alte, perché in fondo il Parlamento europeo, da dove siamo partiti, ha votato una risoluzione, però perché non rimanga così nell'aria, allora bisogna declinarla praticamente. Vediamo domani, ci saranno questi 104 con la fascia tricolore e poi noi però li terremo sotto controllo da buoni ricercatori, perché faremo un monitoraggio, fra sei mesi vedremo le prime azioni che hanno applicato e fra un anno torneremo a Next, dove il tema sarà l'acqua, perché l'acqua in realtà non la sprechiamo diciamo tirando lo sciacquone, questo era il dibattito dell'anno scorso. Noi l'acqua ce la mangiamo perché sta dentro gli alimenti, dentro un chilo di carne ci sono 15.000 litri di acqua. Ecco, questo è un po' il senso di domani. Federico? Ma è vero questa cosa che anche quello che scriviamo, quello che leggiamo sulle etichette, cioè la data di scadenza del cibo, in realtà non è un dato oggettivo, ma è più un dato che viene fuori da dei meccanismi che non funzionano in termini di controllo degli alimenti, di distribuzione, e che quindi potrebbe essere diversa questa scadenza. Ti blocco un attimo per la risposta, intanto so che la sai, la puoi tenere lì, se pensaci un attimo, e conta anche i giorni di quello yogurt che sicuramente hai in frigorifero, e la pubblicità, poi torniamo subito qui in diretta con la notte dei ricercatori. Hai capito che succede? No. Succede che con Opel tagli più della metà del costo del carburante e poi tagli anche più della metà della rata. Fatti bene i conti. Oggi la qualità Opel è tua a condizioni straordinarie. Operazione meno 50%. La nuova gamma Opel GPL Tech da 99 euro al mese. Ma succede solo nella pubblicità? No! Qualità Opel, approvata dalla vita vera. Taygot 78, scopri di più su opel.it. Immagina. Fastweb è sempre con me, a casa e fuori casa. Internet fisso e mobile a 25 euro al mese per un anno, senza costi di attivazione. Fastweb. Immagina. Puoi. Info su fastweb.it 192192 e punti vendita. E veniamo all'ultima domanda di Sushi o raddoppia. Se risponderà correttamente sarà campionessa. In Giappone quanto fa 4x4? Un aiutino. Inizia per S? Ma signorina, in Giappone 4x4 fa SX4! Non sa che Suzuki SX4 è l'unico vero crossover giapponese che può essere suo a partire da 12.990 euro? Suzuki SX4, il crossover giapponese. Prezzo promo per immatricolazioni con permuta entro il 39-12 presso le concessionarie aderenti. Da Foppa Pedretti, Angel Care, il monitor ascolta bimbo che, se non rileva movimenti, compreso quello respiratorio, per 20 secondi, ti avverte immediatamente con un allarme sonoro. Il suo respiro è la tua tranquillità. In vendita nelle farmacie e nei migliori negozi prima infanzia. Ehi, ma che bella Peugeot! È nuova? Shh, zitto! Se no mi scoprono! Che c'è? Non ho pagato l'IVA! Davvero? E come hai fatto? È semplice, con le immancabili offerte Peugeot. Arrivano le immancabili offerte Peugeot. Ti scontiamo l'IVA e non solo. Su tutte le auto della gamma in pronta consegna, IVA zero e tasso zero. TAEG 284%. Ma solo fino al 30 settembre. Cogli le ultime opportunità. Domenica negli showroom Peugeot. Apertura straordinaria. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Torna purtroppo a peggiorare il tempo al nord e sull'Alto Tirreno, in particolare nelle regioni di nord-ovest e in Toscana, dove già domattina sono previste piogge diffuse. Col passare delle ore qualche piovasco raggiungerà anche il Trentino Alto Adige, l'Alto Veneto, l'Umbria e l'Alto Lazio. Situazione ben diversa al sud e sul Medio Adriatico, dove non solo resisteranno ampie zone di sereno, ma anche le temperature potranno addirittura superare i 30 gradi. Domenica clima ancora estivo al sud e tempo buono sulle regioni adriatiche, nuvole che vanno e vengono nel resto d'Italia con piogge in Sardegna, Toscana e in forma meno diffusa al nord-ovest e su Alpi e Prealpi. Per maggiori dettagli consultate www.meteo.it. Con questo è tutto. Gli speciali di Radio 24. Ancora in diretta da Trieste, la notte dei ricercatori, vi abbiamo lasciato con una domanda, si parlava di etichette e di yogurt scaduti ma ancora mangiabili, come fa quotidianamente Andrea Segre. No, beh, adesso. Hai smesso? Ho smesso. Hai smesso con lo yogurt scaduto? No, per dire la verità, ma è una cosa che devo fare io, una prova, perché i miei colleghi tecnologi alimentari mi hanno fatto un grafico, hanno messo i fermenti lattici e il tempo e mi hanno detto che in fondo dopo la scadenza decadono e si acidificano. Siccome io sono basico, io mi riequilibro così, però non fatelo, mi raccomando. È il settimo punto della nostra carta, perché le etichette in realtà vanno semplificate, perché quando lo yogurt sta per scadere, noi tutti stiamo molto attenti, prendiamo quello che scade dopo, quello che rimane lì sullo scaffale e che ancora mettiamo due giorni di vita, e per i fermenti lattici sono un'eternità, vorrei dire, viene gettato via e viene smaltito con un costo economico, un costo ecologico, perché viene distrutto, incenerito, e anche una mancata vendita. Allora forse dovremmo semplificare queste etichette. La proposta, perché poi questo coinvolge anche i preferibilmente entro il prodotto secco, la pasta, che in realtà si potrebbe, quella sì, veramente consumare anche dopo. Il 30% della pasta si getta via perché il consumatore confuso dice no, forse è scaduta. E poi non usiamo più il nostro laboratorio, che è primo, insomma, il naso, gli occhi per vedere se qualcosa effettivamente è andato male. E allora cosa succede? Che se noi effettivamente mettiamo sullo stesso prodotto, stessa etichetta, senza cambiarle, due scadenze, una commerciale e l'altra di consumo, quello yogurt non lo lasci lì, perché sai che per dire hai ancora una settimana di tempo, in effetto psicologico, non è una gran scoperta scientifica, lo fanno in Svizzera per dire, potremmo farlo anche noi, potremmo armonizzarlo a livello europeo e allora sì che gli sprechi diminuirebbero di molto. Grazie Andrea, in bocca al lupo per tutte le tue attività. Domani l'appuntamento è alle 10, se non alle 10 poi a mezzogiorno con tutti i sindaci. Perfetto, grazie Federico, grazie. Rimani qua, tu invece, che ricordiamo anche i tuoi di appuntamenti, ma iniziamo il nostro viaggio in giro per l'Italia. Federico da Pordenone, ciao Federico, sei ancora lì? Ciao Federico, ciao a tutti. 824 0024 numero verde, tu sei ricercatore, sei stato ricercatore, sarai ricercatore? Io sono ricercatore, mi sono laureato un anno fa a Trieste, appunto in fisica, già un anno dalla laurea ho un contratto appunto indeterminato di ricerca presso una multinazionale, quindi voglio anche lanciare un po' un messaggio di speranza a chi punta a questo e chi tenta la fuga all'estero, quando la fuga all'estero spesso non è necessaria. Ti consideri un privilegiato? No, assolutamente, mi sono dato da fare e ho trovato molta meritocrazia e molta passione nel centro di fisica dove ho lavorato e questo mi aiuta tantissimo. Grazie davvero, ciao Federico, in bocca al lupo per la tua attività. Da Mantova invece Pierangelo, ciao Pierangelo. Sì, ciao, la mia domanda era questa, perché in Italia non si riesce a fare un dottorato di ricerca o rientrare nel mondo accademico quando uno ha già raggiunto 50 anni di età? Federico. Dunque, perché non è affatto proibito. Io conosco delle persone che hanno iniziato il dottorato piuttosto avanti con gli anni, non è, è proibito. Il problema è che le condizioni generali, effettivamente non facili di gestione di tutto ciò che è la macchina università, beh, insomma, riuscire a fare un'azione di questo genere è tutt'altro che banale, però non è di per sé impossibile. Tu vorresti farlo? Pierangelo, vuoi farlo? Ma no, sì, potrei essere interessato sicuramente, però so che in altri stati, in Inghilterra in particolare, uno fa un'esperienza professionale all'estero, cioè professionale sul campo, diciamo così, e poi magari rientra nel mondo accademico da cui era partito, apportando quello che aveva imparato, messo a fuoco meglio in esperienza pratica di campo. All'estero è molto più facile, ma all'estero ci sono un'infinità di sbarramenti assenti per quanto riguarda i rapporti, per esempio con la docenza. Uno può incominciare a insegnare anche a 50 anni, viene preso per 3 anni a contratto perché magari è un tecnico che sta lavorando su una cosa specifica, è tutto molto più duttile. Bene Pierangelo, facci sapere, ciao e grazie. 824 0024 per i vostri interventi in diretta. Invece andiamo a Palermo con Anna Lobue, ricercatrice, una delle animatrici del centinaia e centinaia di eventi e iniziative che sono in atto proprio in queste ore in tutta Italia. L'evento è il Light 12, quando dormire stanca. Ciao Anna. Ciao, salve, buonasera. Buonasera. Tu sei ricercatrice in... Io sono accennista di ricerca e mi occupo di disturbi respiratori nel sonno. Quando dormire stanca... C'è abbastanza incuriosito come titolo, ci puoi dare anche la risposta a questa domanda? Assolutamente sì, il sonno è la nostra possibilità per eccellenza di ristorare e di ristorarci di tutte le stanchezze durante il giorno. Se nel corso del sonno si soffre, si ha una patologia respiratoria come la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno e come il russamento, la funzione che è quella fisiologica del sonno di ristorazione e di riequilibrio delle nostre funzioni fisiologiche non è permessa e quindi questo determina nelle ore diurne conseguenze gravi, quali una sonnolenza importante con impatto sociale anche di incidenti stradali, deficit neurocognitivi, difficoltà nel concentrarsi, difficoltà nel memorizzare, quindi anche un impatto sulla vita lavorativa dei pazienti che soffrono di questo disturbo. Quindi quando dormire stanca, ma non solo stanca, crea tante altre difficoltà e tanti altri disturbi. Ecco, per capire cosa significa far vedere la scienza, voi dalle 18 alle 2 di questa notte all'Orto Botanico state portando avanti questa attività? Dalle 18 alle 2, fai addormentare le persone? Cosa fai? Le fai addormentare? Le svegli? Cosa fai? Esatto, non c'è possibile, perché essendo una patologia esclusivamente del sonno non possiamo costringere a dormire nessuno, ma avviciniamo la nostra Palermo a una patologia che purtroppo è poco conosciuta, ma colpisce oltre 2000 italiani, per cui anche avvicinare alla conoscenza della patologia significa fare prevenzione, significa permettere un accesso a una parte della nostra vita di cui non siamo coscienti, che è il sonno, con problemi che poi abbiamo durante il giorno. Perfetto. Noi mostriamo oggi dei questionari. Sì. Pronto? Sì, scusa, c'è stato un ritardo. No, ti dicevo, c'è Pedrocchi, il mio collega, che sbadigliando ha chiesto di farti una domanda. Sentiamo cosa. Senti, so che molta gente che ha questi problemi appunto di respirazione difficile la notte pensa che stare appunto con la panza all'aria sia meglio, perché se mi giro, uh-huh, e allora col corpo peso sui polmoni respiro peggio, mentre invece sembrerebbe esattamente il contrario, no? Che è così. È esattamente il contrario, la posizione supina aumenta il rischio di eventi di apnea, cioè di chiusura della parte alta, cioè delle vie aeree superiori, e la posizione supina ne aumenta il rischio. Perfetto. Quindi è meglio dormire lateralmente, non supina. La via di mezzo. Dormiremo tutti più sereni, grazie davvero Anna, a te e a tutto il tuo team. grazie a voi. Questa notte dei ricercatori, ma in questa notte, in questa serata, in questa puntata dedicata alla scienza, facciamo anche un gradino sotto, perché la scienza non è solo quella universitaria, ma già alle scuole superiori se ne fa tanta, e c'è questa competizione organizzata ogni anno dal CNR e dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, una competizione si chiama Inv Factor, dedicata ai giovani creativi degli istituti superiori che hanno lavorato tutto l'anno con l'aiuto degli insegnanti per mettere a punto le loro tecnologie, e abbiamo in collegamento diretta i vincitori di questa edizione, Michela Di Nanno dell'Istituto Tecnico Cannizzaro di Catania. Ciao Michela. Buonasera a tutti. Ciao, poi c'è Patrick Neuhauser dell'Ippia Galilei di Bolzano. Ciao Patrick. Salve, buonasera. Alessandro Vorrasi, Itis Fermi di Roma. Ciao Alessandro. Salve a tutti. Eccolo lì. Togli il viva voce, c'è una festa, lo sento. Avete vinto, andiamo a vedere se siete bravi anche a presentare, a farci vedere via radio il vostro progetto. Michela, cosa avete combinato? Siamo partiti da sostanze di scarto agricolo, quindi a costo zero, abbiamo estratto i nostri coloranti naturali, quindi abbiamo triturato con estrazione o in acqua o in alcol, abbiamo messo la lana a mordenzare, vuol dire a far bollire 2-3 ore con del sale, noi abbiamo utilizzato l'allume di rocca. Ed ecco che il risultato ha dato uno splendido risultato, perché la lana è stata colorata perfettamente. Qui il confine tra scienza e art attack è labile. Però no, nel senso che procedimenti, e avete vinto con questo progetto, avete vinto voi o siete arrivati terzi? Sì, sì. Abbiamo vinto noi, sì. Abbiamo trovato una soluzione coloranti di sintesi, quindi utilizzando coloranti naturali che non creano problemi. Ma l'idea a chi è venuta? Allora, l'idea è stata della classe con l'aiuto dei professori di analisi chimica e chimica organica. Perfetto, vedi, insomma, un lavoro di team. Complimenti Michela. Andiamo invece a Bolzano. Patrick, voi cosa avete realizzato? Noi abbiamo sviluppato un sistema antiribaltamento per piattrici agricole. Per, scusa? Il quale... non ho capito, per che cosa? Per trattori agricoli. Ah, per mezzi agricoli. Sì, ok. Un mezzo una tecnica antiribaltamento? Ho capito bene? Sì, un sistema che viene montato sul trattore una volta prodotto, il quale impedisce il ribaltamento del mezzo. Che immagino che non è un problema che un 17enne sente quotidianamente. Avete analizzato i lavori della zona, avete capito che c'era quella problematica? Sì, da noi in Alto Adige il problema è molto risentito, abbiamo dalle 12 alle 15 vittime l'anno, la maggior parte incidenti mortali. E questo sistema come funziona? Questo sistema è un attuatore che viene posto sull'avantreno del mezzo, ovvero c'è un attuatore collegato fra l'asse del mezzo e il telaio. Quando il trattore arriva a una soglia critica dei 35 gradi, che porterebbe al ribaltamento, questo contrasta questo momento ribaltante, portando la ruota posteriore a monte, schiacciandola contro la pendenza. Funziona? Funziona? E devi funziona. No, non mettere giù il telefono adesso, non sta bene, no? Devi dirci. Perché se non funziona è grave. No, funziona. Funziona. Patrick? Sì, mi sente? Sì, io ti sento. Funziona? Cosa funziona? Il sistema? Il sistema, certo. Sì, certo che funziona. Complimenti Patrick, grazie, ciao. Grazie mille, salve. Alessandro, un minuto di pazienza, le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo immediatamente da te. Legalmail.it, la tua posta elettronica certificata, vi presenta Strade in diretta. 21.46, buonasera dalla redazione di Strade in diretta. Sulla 4 Brescia-Padova ci sono rallentamenti tra Desenzano e Brescia Est verso Brescia, questo a causa di un incidente tra camion avvenuto nel pomeriggio, ora risolto. Sul raccordo Salerno-Vellino il traffico è rallentato per un incidente tra l'innesto per la 3 e lo svincolo di Baronissi in direzione di Avellino. Vi segnaliamo che questa notte sarà chiusa per lavori la 3 Napoli-Salerno nel tratto compreso tra Salerno e Cava dei Tirreni in direzione di Napoli dalle 22 alle 6 di domani mattina. Nella stessa fascia oraria chiusa poi anche la 24 Roma-L'Aquila-Teramo tra San Gabriele Colle d'Aria e Sergi in direzione di Roma. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra circa un'ora. Gli speciali di Radio 24. La notte dei ricercatori, 800-24-00-24, siamo in collegamento con i ragazzi delle scuole superiori che hanno partecipato e vinto all'edizione 2012 di InFactor, infactor.cnr.it, il sito per conoscere anche il bando della prossima edizione. Siamo all'Istituto Fermi di Roma con Alessandro. Alessandro, voi cosa avete ideato? Noi abbiamo ideato un plastico che rappresenta una situazione di traffico stradale. La nostra vera invenzione sta nel controllo semaforico. E lo avete cambiato? Lo abbiamo? No, dimmi, scusa, quando il semaforo diventa... Quando il semaforo diventa rosso, diciamo così, c'è un trasmettitore che trasmette il segnale al ricevitore posto sul robot, che simboleggia la nostra autovettura. Così dal semaforo rosso lui si ferma. Quando ritorna verde, il robot riparte automaticamente. E la stessa domanda anche per te, funziona? L'avete sperimentato? Sì, funziona, abbiamo anche, diciamo così, fatto un calcolo dei costi che potrebbero avere nella società italiana, diciamo così, sono veramente bassi. Complimenti anche a te, ma scusa, anche per te la stessa domanda, però, perché immagino, vivendo a Roma, il traffico, il semaforo, questo compagno di vita quotidiana, è nata da lì l'idea di fare una ricerca, fare un sistema tecnologico proprio sul semaforo? Sì, anche perché vediamo tutti i problemi che causano il traffico, che causa comunque il semaforo, che porta un sacco di incidenti, infrazioni continue, insomma. Perfetto, complimenti anche a te, a tutta la tua classe, a tutta la scuola, grazie. Grazie. Ciao Alessandro, ciao ciao. Grazie. E torniamo qui in studio nella nostra postazione in piazza Unità d'Italia, Trieste Next, con un altro ospite. Sono molto orgoglioso di avere qua con me Paolo Rumiz. Ciao Paolo. Buonasera a voi. Giornalista o camminatore? Come preferisci essere definito per primo? Viaggiatore. Viaggiatore, però sempre con Block Notes, la penna e non solo, anche la macchina fotografica. Ti abbiamo seguito quest'estate nel tuo viaggio lungo il Po. Come sta questo Po? Beh, è stata una sorpresa piacevole, perché nonostante le cose che gli infliggiamo, quello che abbiamo visto è stato straordinario. Vedere per esempio come nel giro di 20-30 chilometri il Po che esce da Torino, quindi ben sporco, riesce completamente a ripulirsi semplicemente passando attraverso sabbie e ghiaie, nonostante i prelievi, nonostante i canali che gli rubano un sacco d'acqua, assolutamente del miracoloso. Cioè, io ho provato proprio una sensazione di reverenza nei confronti di questo fiume, e man mano che andavo avanti avevo la sensazione non di percorrere un luogo, ma di conoscere una persona. Cioè, lentamente il fiume prendeva un carattere di compagno, il compagno di viaggio, era lui che dovevo raccontare, non un paesaggio, un panorama. Perché comunque bisogna camminare anche seguendo i suoi ritmi, seguendo le sue deviazioni, è un compagno di viaggio presente. Ah beh, certo, devi adattarti al suo ritmo, devi entrarne a fare parte, devi diventare fiume. Penso che sia un po' questo. Io ricordo per esempio il vecchio Rigone Esterno mi diceva che a furia di andare nel bosco lui diventava bosco. Ecco, nel Po io ho cominciato a diventare fiume. Paolo, ci tenevo ad averti qua in questa serata in cui si parla di ricerca, perché credo che il camminare e la ricerca abbiano tanti punti in comune. La filosofia era fatta dai peripatetici, non a caso, no? Erano dei camminatori. E anche la poesia, in fondo. I versi si dividevano in piedi. Ci sono molte cose che hanno a che fare col cammino. Io, per esempio, quando scrivo, mi basta quel minimo pendolarismo tra il mio computer, non lo so, e la plancia dei fornelli dove ho messo un sugo a sobbollire, mi bastano quei 3 metri, quel pezzo di strada, perché mi vengono in mente delle cose che stando seduto non mi verrebbero in mente mai. Quindi lo spostamento è assolutamente propedeutico a quel colpo di genio, a quel cortocircuito che può creare il verso, può creare l'intuizione letteraria, ma anche una formula matematica, chi lo sa. Ecco, e il camminatore è uno che cerca sempre invece o aspetta? No, il camminatore, il vero camminatore si arrende al viaggio, non si ostina a cercare quello che ha pensato di voler trovare pianificando il viaggio, ma a un certo punto, se è un vero camminatore, se è un vero viaggiatore, si arrende a ciò che il viaggio gli dà. Non sei tu che fai il viaggio, ma è il viaggio che ti fa. Tutto il viaggio sono le persone che incontri, e quindi tutto è determinato dal caso, non sono i luoghi che fanno un attraversamento di un luogo, cioè non sono i luoghi che fanno il viaggio, ma le persone che incontri, e quelle sono diverse, cioè nessun altro potrà rifare quel viaggio che hai fatto tu. Quindi ostinarsi a raccontare i luoghi è abbastanza perdente, sia dal punto di vista letterario che anche dal punto di vista giornalistico. Adesso andiamo a visitare un paio di eventi che sono particolarmente legati a dei ruoli. Il primo, andiamo a Torino, con noi c'è Marco Barla, ricercatore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale Edile Geotecnica del Politecnico di Torino. Ciao Marco, benvenuto alla Notte dei Ricercatori. Ciao, sono qui. La vostra domanda era: ma quanto si muove la mole antonelliana? Lo avete scoperto? Allora, una piccola delusione, purtroppo no, perché dalla posizione in cui siamo oscurati da Palazzo Madama e non abbiamo potuto monitorare la Volantonelliana. Allora abbiamo deciso di puntare il nostro radar sul Palazzo Reale e dopo dotte e lucubrazioni siamo giunti alla conclusione che non si muove. C'era attesa, cioè per un attimo, quindi è confermato, Palazzo Reale non si muove. E com'è andata questa dimostrazione ai cittadini? Insomma, che immagino, allora, noi abbiamo, il sistema che stiamo usando è un radar interferometrico che viene posizionato a terra, si muove su un binario di una lunghezza di 2 metri, in questo modo riesce a realizzare un'apertura sintetica. In questo modo noi riusciamo a osservare uno scenario bidimensionale ed è uno strumento che utilizziamo per monitorare gli spostamenti delle frane. In questo caso siamo in centro di una città e quindi abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione su un palazzo che, come abbiamo detto, in realtà non si muove, però il nostro radar è piazzato proprio di fronte al Palazzo Reale e la riflessione del palazzo è molto buona, riusciamo a vedere l'intero corpo del palazzo, della biblioteca, la cupola della Cappella della Sindone e il Palazzo della Regione. Aspetta che Federico deve aggiungere. Volevo chiederti, ma il fatto che la mole si muovesse, nel senso che oscilla, oppure se voi individuate... Avreste potuto individuare uno spostamento, vuol dire che lentamente si sarebbe allontanata da Torino? Stiamo parlando di un'oscillazione della punta causata la punta della mole è molto alta, sono 167 metri, molto snella, e quindi avremmo potuto anche in maniera monodimensionale provare a vedere qual era la frequenza di vibrazione di quella punta. Perfetto, ci teniamo il dubbio, grazie davvero, ciao Marco. E fra pochissimo invece andremo con Nicola Casaldi a parlare della Costa Concordia e del lavoro che i ricercatori stanno facendo in quella zona. Adesso ci fermiamo, il GR poi ancora qua con la notte dei ricercatori. Da New York a Pechino, da Roma a Berlino, le città allargano gli orizzonti e diventano smart. Smart City. Smart City è il programma di Radio 24 che vede nel futuro delle città intelligenti. Sono Maurizio Melis e vi aspetto da lunedì a venerdì alle ore 21 su Radio 24. In collaborazione con Cersaie, il salone internazionale della ceramica e dell'arredo bagno è a Bologna dal 25 al 29 settembre. Hai capito che succede? No. Succede che con Opel tagli più della metà del costo del carburante e poi tagli anche più della metà della rata. Fatti bene i conti. Oggi la qualità Opel è tua a condizioni straordinarie. Operazione meno 50%. La nuova gamma Opel GPL Tech da 99 euro al mese. Ma succede solo nella pubblicità? No! Qualità Opel, approvata dalla vita vera. Taigot 78, scopri di più su opel.it. Ma che fai? Rottamo la mia PEC. La tua PEC? Sì, la PEC, la posta elettronica certificata. Lo fai al computer? Certo, perché se la tua PEC è in scadenza e non hai mai avuto una Legalmail, vai subito su legalmail.it. Perché? Perché per i nuovi clienti Legalmail è gratis per 6 mesi e addirittura in versione Silver. 5 giga di spazio, versione mobile, notifica SMS, archivio di sicurezza. Allora corriamo tutti su legalmail.it. È un prodotto InfoCert. Allora, cappello c'è, gli antichi palazzi dell'Oman ci sono, lo shopping a Dubai c'è, il giro nel deserto di Abu Dhabi c'è, l'atmosfera da mille e una notte c'è. Bene, ora mi manca solo un fidanzato e poi c'è tutto. Con Costa tutto quello che cerchi c'è, anche d'inverno. Una crociera firmata Costa di una settimana alla scoperta degli Emirati da 790 euro volo incluso. Corri in agenzia di viaggi o su costacrociere.it. Offerta soggetta a condizioni e limitazioni, tasse portuali e quota di servizio escluse. Mamma, mi racconti una fiaba? Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere. Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre? Sempre dove stai tu, amore mio. Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici. Ogni sera 8 single su 10 avvicinano una bella donna, ma solo il 26% nota il marito che le siede accanto. Ogni giorno in Italia 4.800 persone comprano un'auto, ma solo pochi sanno cogliere una vera occasione. Non perdere un'incredibile offerta. A settembre Citroen C3 con 5 porte, clima, radio CD e 6 airbag da 9.900 euro. Scopri anche le versioni con impianto GPL gratis. Ti aspettiamo anche domenica 30. Info su citroen.it. Tornerei in Italia se alla mia età la mia opinione fosse presa in considerazione come lo è in Francia. Tornerei in Italia se avessi uno stipendio che mi permettesse di comprare un appartamento e pensare ad una famiglia. Tornerei in Italia se le aziende dessero valore al merito. Tornerò in Italia quando gli italiani saranno prendersi cura della meraviglia che il nostro paese emana ogni volta che lo sorvolo su un aereo diverso. Manager, ingegneri, ricercatori, imprenditori e non solo, i nostri giovani talenti all'estero sono centinaia di migliaia, numeri in crescita costante. Per tornare pongono condizioni precise, meritocrazia reale, posizioni di responsabilità, salari migliori. Giovani talenti continua a raccontare le loro storie e prova a farli tornare. Ogni settimana riconnettiamo l'Italia con i suoi talenti all'estero. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta. Preventivi gratuiti su axerta.it. Sono le 22. GR24, il sole 24 ore. Politica, il signor Berlusconi è un corruttore, dichiara Fini durante 8 e mezzo e auspica dopo le elezioni Monti Premier. Iran, Obama e Netanyahu sono totalmente d'accordo nell'impedire al paese di dotarsi della bomba.